Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Avete detto che la densità in Svezia è molto più bassa e per questo è funzionato non fare il lockdown. La densità nelle città è la stessa che nelle città italiane. Il 65% della popolazione svedese vive in grandi città. Tenete anche presente che in Svezia si è deciso di non fare il lockdown perché un paese che arriva da 5 mesi di buio e di gente che sta in casa, se la chiudevano in primavera, il numero di suicidi sarebbe stato forse quasi paragonabile al numero di morti per Covid. I contagi sono decuplicati da quando sono aperte le scuole, perché sono un bacino enorme di contagio, che poi loro restano asintomatici e poi contagiano gli altri. Basta vedere poi gli assembramenti che fanno vicino alle scuole, sui mezzi pubblici, così. Quindi De Luca ha perfettamente ragione. Sul MES non ho sentito nessun giornalista incalzare, come lo farebbero probabilmente i giornalisti anglosassoni, inglesi e americani, il Premier sulle motivazioni reali del rifiuto del MES. Se la cavano sempre con due paroline sibilline. Ci vorrebbe proprio un'interrogazione pubblica, ossia da parte dei giornalisti, che mettesse un po' all'angolino. Ma sa, caro ascoltatore, se si fanno delle conferenze stampa di 20 minuti nelle quali sono consentite solamente 4 domande e nulla più, è un po' difficile incalzare, eh? Ammesso poi che i colleghi che sono là avessero voglia e opportunità di farlo, naturalmente, però Conte ha detto tutta una serie di cose sul MES ieri, alcune delle quali, devo dire la verità, suscitano una certa perplessità. Magari poi più avanti ci arriveremo anche con Paolo Mieli. Ah, io sulla questione delle scuole lo dico all'ascoltatore, per carità, opinione mia, non sono d'accordo. I dati che, ripeto, che ha fornito lo stesso De Luca, ci parlano di 800 contagi tra personale scolastico e studenti. 800 contagi. Su appunto 950.000 persone tra personale scolastico e studenti, vuol dire appunto lo 0,8 per mille. Di che parliamo? Il problema sono i trasporti pubblici, diciamoci la verità, il tema è quello, il tema è esattamente quello. E devo dire, la cosa che genera più perplessità è il fatto che questa cosa riguardi non solamente le superiori, ma un po' tutte le scuole. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È lunedì 19 ottobre. Al microfono sempre Simone Spezia. E un ringraziamento all'ascoltatore per le precisazioni in arrivo dalla Svezia, che sono importanti. Mettiamoci anche, mi scusi, che hanno un'età media più bassa di 5 anni rispetto all'Italia, quindi forse qualcosa di diverso se lo possono permettere. Età media, intorno ai 40 anni se non vado errato, contro i 45 dell'Italia. Non è poco significativo questo dato. E grazie. È la parte dedicata alla rassegna stampa, ovviamente nemmeno ve lo devo dire. Le prime pagine dei quotidiani hanno titoli tutti dedicati, quasi tutti dedicati alla questione, al DPCM di ieri, al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ieri. Ai sindaci il potere di coprifuoco è il titolo del quotidiano nazionale. La stampa, i sindaci spegneranno la movida. La Repubblica, l'ira dei sindaci su Conte. Il giornale, scarica barile totale. Corriere della Sera, nuova stretta, ecco tutte le misure. Il Fatto Quotidiano, Conte non richiude l'Italia, ora dipende tutto da noi. Libero, 40 miliardi nel water, soldi a tutti, spiccioli alla sanità. No, scusate, scusate il sorriso, però... È un titolo divertente, pittoresco quello di Libero. Covid, restrizioni soft, i sindaci decidono le zone rosse nelle città. Il Messaggero, scuola aperta e sport chiuso, movida decidono i sindaci. La verità ci dice che la manovra di Conte ha un buco di 17 miliardi, sostiene così, e soprattutto in realtà il titolo di apertura è dedicato alla, all'uccisione di Samuel Paty, il professore francese che aveva mostrato in classe le vignette su Maometto. La censura vieta la foto della testa tagliata, non nasconderà il martirio del professor Paty. E La Verità decide di pubblicare la foto della testa tagliata del professor Paty, ovviamente pixelata, cioè non si vede, però è molto intuibile la cosa. Questi i titoli dei quotidiani e iniziamo come sempre da qualcosa di diverso. E quel qualcosa di diverso è quello che vi ho preannunciato poco fa, ossia le notizie che arrivano da Roma, che ci sorprende sempre nelle ore nelle quali Carlo Calenda annuncia la sua candidatura a sindaco della capitale. Lo fa con qualche malumore, qualche mal di pancia all'interno del Partito Democratico, e ne trovate traccia un po' su tutti i giornali, poi magari ne parliamo più avanti anche con Paolo Mieri nel consueto appuntamento che abbiamo dopo il GR delle 8. L'AMA, l'azienda che si occupa dei rifiuti, la municipalizzata ambientale di Roma, la quale si occupa anche dei servizi cimiteriali. Il pezzo di Francesco Pacifico si intitola così: AMA ai lavoratori dei cimiteri un bonus se si fanno trovare. Allora, in sé la cosa non sarebbe drammatica, perché in realtà poi a leggere il pezzo di Francesco Pacifico apprendiamo che si tratta di un bonus per la reperibilità. Chiunque sia un imprenditore o un lavoratore dipendente, ma non solo, sa perfettamente come funziona, cioè tu hai diritto a un bonus nel momento nel quale, se sei fuori dal turno di servizio, dai la tua disponibilità ad essere raggiunto per eventualmente rientrare al lavoro. Il punto qual è? Il punto è che questa indennità per la reperibilità riguarderà non solamente gli anni a venire, ma anche gli anni passati. Il 2016, il biennio dal 2016, il triennio dal 2016 al 2018, applicando il massimale previsto dal contratto del 1999. In comune, dato che l'accordo l'ha firmato la municipalizzata con i sindacati, la concessione di questa indennità lascia perplessi per diversi motivi. In primo luogo si spiega che a 2 anni di distanza è quasi impossibile ricostruire chi ha dato o meno in quel periodo la reperibilità. In secondo, non è meno complesso capire se alcune attività sono state effettuate durante o fuori l'orario di lavoro. Infine, poi, vabbè, c'è una questione dell'atteggiamento dell'azienda, che tende a garantire benefit retroattivi. Questa cosa dei benefit retroattivi, che non è nuova per le municipalizzate romane, devo dire, è veramente, veramente incredibile. E questa è la storia che peschiamo dal Messaggero e che riguarda l'AMA, un po' a testimonianza, no, di quello che il futuro sindaco di Roma dovrà fronteggiare. Come sapete, in questa fascia, in questa parte, in questa rassegna stampa tendiamo a dare una certa attenzione a tutti i temi che hanno a che fare con il carcere e la giustizia, appena possiamo e appena ne troviamo l'occasione. E la storia sulla quale vi voglio portare è quella che arriva dal Mattino, ed è una storia come ce ne sono state tante altre, a dire il vero, e che troviamo a pagina 21, raccontata da Leandro Del Gaudio. Ed è una storia incredibile, perché riguarda un imprenditore che si è fatto 800 giorni in cella accusato di omicidio, per poi essere liberato ed essere risarcito, perché con quell'omicidio non c'entrava nulla. Era una storia di camorra, l'omicidio di Luigi Borzacchiello, consumato ad Afragola il 9 dicembre del 2006, un delitto premeditato e aggravato dal fine camorristico. Storie di bande criminali, scrive Leandro Del Gaudio sul Mattino, che si contendono il territorio, in uno scenario che appare subito chiaro agli inquirenti, forti di intercettazioni ambientali e nel corso del tempo anche del racconto dei pentiti. In queste intercettazioni ambientali c'è un collegamento, perché questo imprenditore è parente di una delle persone collegate a questo delitto, e sembra di intuire da un'intercettazione ambientale che forse viene citato il nome di questa persona. i pentiti raccontano che questa persona era presente alla riunione nella quale si è deciso l'omicidio. Dopodiché cosa fanno? Cosa succede? Che si va in primo grado, viene condannato. In secondo grado, nel processo d'appello, la sua penalista riesce a ribaltare completamente le cose. Si capisce che in quella intercettazione ambientale il suo nome non viene mai fatto e le testimonianze dei pentiti si contraddicono. Morale, quest'uomo viene macchiato da un'indagine penale che lo porta in carcere appunto per più di 2 anni, per sospettato di aver partecipato ad un omicidio, mentre invece non c'entrava niente. Arriva alla fine il maxi risarcimento da 188.000 euro in un distretto giudiziario spesso segnalato, scrive Del Gaudio, per casi di ingiusta detenzione. Una reputazione macchiata, un po' come quella della pizzeria Da Michele a Milano, una pizzeria storica di Napoli che apre la sua succursale milanese, a febbraio 2020 viene chiusa, chiude per mafia, titoleranno i giornali. Ebbene, anche in questo caso non era vero, ce lo racconta Libero a pagina 15. In occasione della pubblicazione di un libro che racconta esattamente questa pizzeria, 3 generazioni di pizzaioli, appunto La pizza e pizza è il titolo di questo libro, per dare una picconata ai luoghi comuni e alle banalizzazioni giornalistiche. Febbraio 2020 chiude per mafia, ce ne siamo accorti poco probabilmente di questa vicenda, perché eravamo presi dal Covid, dal lockdown. Ebbene, però anche qua una macchia sulla reputazione per una vicenda poi rivelatasi falsa. E visto che siamo nelle aule di giustizia, o meglio a ridosso delle carceri, no, però dobbiamo prenderci una pausa, ci ritroviamo tra un attimo, perché dopo molti anni negli Stati Uniti verrà giustiziata una donna. Il via libera l'ha dato il presidente americano Donald Trump. Flavia Perina sulla Stampa racconta la storia di questa donna, però riserviamocela per dopo. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Mattino. Che vuol dire adeguarsi? Io sono un titolare di palestra, non ho capito, già io ho fatto tutto quello che dovevo fare. Sono un insegnante, mi va benissimo lavorare fino alle 4, alle 5 del pomeriggio, ma bisogna rimodulare tutto il sistema dei trasporti. Sarebbe stato molto, molto più semplice dividere la classe in 2, così si svuotano del 50% il trasporto pubblico e la cosa sarebbe stata molto, molto più semplice. È fantasiosa l'idea di cominciare alle 9, e poi uno alle 10, uno alle 11 e poi usciamo alle 3, alle 4, alle 5, poi i ragazzi arrivano a casa alle 6. Carlo Calenda non ha fatto altro che riempire un vuoto che la destra e la sinistra hanno creato a Roma, visto che non trovo neanche un nome per fare il sindaco. E adesso non ci vogliono stare? Mi trovo molto d'accordo su quest'ultima affermazione. In assoluto, cioè sul fatto che Calenda sia andato a riempire un vuoto che oggettivo nella capitale, con un centrodestra incapace di trovare un candidato forte e un centrosinistra in ballo con questa figura della Raggi incombente che il Movimento 5 Stelle non vuole mollare ma il Partito Democratico non vorrebbe mai. E quindi sì, è vero, dal punto di vista politico questa è un'osservazione giustissima. Sulle palestre cosa vuol dire adeguarsi? Guardi, amico mio gestore di palestra, non lo so nemmeno io, perché non so che cosa voglia dire adeguarsi entro una settimana. Cosa vuol dire? Che andranno a fare i controlli, più controlli, e verificheranno, e se ne troveranno troppe fuori norma, chiuderanno tutte? Non lo so sinceramente, anche se questa ipotesi mi sembrerebbe decisamente, decisamente ingiusta. E sull'ascoltatrice che ci parla della didattica e della divisione delle classi in gruppi, molte scuole già lo fanno. Io, se lei è un insegnante, la sua scuola non lo fa, glielo dica al suo dirigente scolastico, perché anche qua qua c'è un tema continuo di scarico di responsabilità verso l'alto e verso il basso, ed è il grande tema del Covid di questo periodo. Se le scuole hanno l'autonomia e la possibilità di farlo, lo facciano. Perché non lo fanno? Perché c'è una circolare ministeriale che lo prevede dal 7 luglio che si possono organizzare in termini di orari, divisione dei gruppi e via dicendo. Io questo non riesco a capirlo. Perché i sindaci non si sono organizzati per mettere insieme le scuole di uno stesso quartiere e dire ok, tu inizi alle 9, tu inizi alle 8 e dividi la gente in gruppi? Non riesco a capirlo, se non con la carenza di programmazione. Allora, oggi va così, ci sono molte cose sulla giustizia, poi arriveremo anche alla questione dei contagi, di quello che sta succedendo in Campania, in Lombardia e via dicendo, però c'è molto su questo tema e quindi mi perdonerete se in questo lunedì ci teniamo un filo conduttore che ci porta ancora avanti per un pezzo. E l'altro pezzo sul quale vi voglio portare è quello di Flavia Perina. Vi dicevo che riguarda Lisa Montgomery, 52 anni, la prima donna messa a morte dalla giustizia americana dai tempi di Eisenhower negli anni 50. Così l'America manda a morte Lisa la strega, il titolo di Flavia Perina. È rea confessa di un delitto orribile, come peraltro tutti i delitti che incrociano la pena capitale, l'omicidio di una giovane prossima al parto allo scopo di sottrarle il neonato. L'esecuzione annunciata ieri è fissata per l'8 dicembre prossimo e fa parte di un pacchetto di condanne programmate a luglio, quando il presidente Donald Trump riuscì a ottenere la ripresa delle iniezioni letali ai condannati dai tribunali federali, interrompendo la moratoria decisa un ventennio fa da George Bush Jr. Lisa Montgomery è quasi sicuramente una malata di mente, cresciuta in una famiglia violenta e abusante, resa sterile da un intervento, ossessionata dall'idea della maternità. Arriverà al patibolo moltissimi anni dopo l'atroce assassinio che risale al 2004 e mai come in questo momento, mentre l'intero Occidente è concentrato su un altro tipo di lotta contro il male, la sua esecuzione appare più un rito esorcistico che l'esito di un processo di giustizia. Troppo lontani i fatti, troppo evidente la condizione psichiatrica della condannata. E tuttavia l'America, o almeno una parte dell'America, sembra darsi con convinzione all'esorcismo, nel terzo millennio dominato dalla tecnica, dalla complessità, da processi che spesso sfuggono alle persone comuni. Una larga parte dei cittadini ha bisogno di sentirsi dire che c'è una via per estirpare la paura e l'orrore, per cancellare il demonio e ritrovare l'equilibrio perduto. E qua si ricollega a un sondaggio del quale troviamo traccia, per esempio, anche sul Giornale, a pagina 13. Questo sondaggio viene definito shock, un sondaggio SVG per l'Huffington Post. Il 37% degli italiani vorrebbe mettere al muro i grandi delinquenti, autori di crimini efferati. Il 21% è favorevole e il 16% lo è ancora di più, senza se e senza ma, come una soluzione adeguata da buttare sul piatto per risolvere i troppi problemi che nessuno affronta mai, scrive Stefano Zurlo appunto sul Giornale. Siamo qua a quasi 4 nazionali su 10, come dire che buona parte della tolleranza sbandierata per decenni poggiava su gambe esili, oppure se n'è andata nell'incertezza generale. Il trend va nella direzione della forca e del patibolo. 3 anni fa eravamo al 35%, nel 2010 al 25%, a segnare un ritorno della voglia di far arrivare la pena di morte. Eppure il carcere funziona quando ha degli elementi di rieducazione, e chissà come verrà presa da qualcuno e forse anche dai familiari delle vittime quello che succede adesso ad Andrea Volpe, ex bestia di Satana, quello che svelò i delitti della setta, le bestie di Satana responsabili di 3 omicidi. Fu l'omicidio, lo ricorderete, di Mariangela Pezzotta in uno chalet a Gola Secca, provincia di Varese, il 23 gennaio 2004, a svelare gli orrori appunto della setta fai da te che ha voluto darsi il nome di Bestie di Satana. E chissà come verrà commentata la vicenda di Andrea Volpe, che ci racconta il Quotidiano Nazionale a pagina 11 con Gabriele Moroni da Somma Lombardo, che si laurea e ora può diventare maestro. Ha scelto di vivere lontano da Somma Lombardo e sta studiando per laurearsi. Dopo i boschi della Brughiera, Varesotta, l'Arenile Adriatico, Andrea Volpe vive le sue giornate da uomo libero in una villetta schiera alla periferia di Lido degli Estensi, un alloggio utilizzato dai genitori quando il figlio era ancora detenuto a Ferrara nella casa circondariale dell'Arginone. Fra gli impegni delle sue giornate, oltre alle commissioni quotidiane, ci sono gli studi universitari iniziati a Ferrara durante la detenzione, alcuni esami, poi la tesi di laurea di scienze filosofiche e dell'educazione, un percorso accademico. Racconta a Moroni che potrebbe aprirgli le porte dell'insegnamento didattico. Traffico. Ed eccoci, un po' di cronache da Covid. Oggi il Sole 24 Ore, a differenza del consueto numero del lunedì, è un numero fresco, chiuso in redazione ieri, e lo trovate con tutti i dettagli sulle nuove misure, gli ingressi limitati e gli orari differiti per ristoranti e bar, l'ultimatum alle palestre del quale abbiamo parlato poco fa, la questione dei sindaci che decideranno loro le zone rosse nelle città, una questione che, come ben evidenzia per esempio il quotidiano La Repubblica in prima pagina, ha suscitato già le polemiche dei sindaci che protestano e dicono state scaricando sulle nostre spalle tutte le responsabilità. E poi c'è tutta la questione sanitaria, la questione sanitaria che ci... sulla quale per esempio ci porta La Stampa, pagina 6, nella quale, in un pezzo di Fabio Di Todaro, nel quale ci racconta degli ospedali in affanno e il presidente della Campania De Luca che ha fatto fermare i ricoveri programmati proprio perché la Campania è sotto pressione, a testimonianza che questo problema del Covid poi mette a ruota, crea problemi a ruota su tutta la salute dei cittadini. Tanto che La Stampa intervista l'immunologo Alberto Mantovani, il quale dice: attenzione a parlare solo di virus, sono saltati milioni di esami oncologici. Perché le persone adesso temono l'ospedale. L'immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Humanitas, reduce dal premio letterario Galileo di Padova. Sono convinto che non dobbiamo parlare solo di coronavirus, il che non vuol dire abbassare la guardia, ma non ripetere gli errori della prima fase. Cosa dimentichiamo? I numeri sul cancro sono drammatici. Nei mesi scorsi abbiamo perso 1,5 milioni di esami senologici e ci sono dati simili su altri tumori. Le persone hanno paura di ospedali e ambulatori e questo provoca danni enormi. Mentre tutto, dice Mantovani, si può fare in sicurezza. Un messaggio che vale la pena ribadire. Intanto però c'è l'oggettività di quello che succede all'interno degli ospedali, e prendiamo un esempio per tutti, la cronaca milanese del Corriere della Sera, l'escalation di ricoveri, i reparti riconvertiti per i pazienti, una situazione critica, così viene descritta nel pezzo di Stefano Landi e Gianni Santucci. Dalla Direzione Generale Welfare della Regione è partito il nuovo piano diretto a tutti gli ospedali, in particolare quelli delle zone più colpite in questa fase, Milano, Monza e Varese. Stiamo chiedendo a tutti di riorganizzare gli spazi per mettere a disposizione letti Covid. Se sulle rianimazioni siamo ancora in fase 1, sulla degenza ordinaria stiamo entrando in quella che viene definita la fase 3. Lo dice il direttore Marco Trivelli. La sfida è diversa da quella combattuta in primavera, i numeri mostruosi dei contagi colpirono alle spalle il sistema e toccò di fatto resettare gli ospedali destinandoli solo ai pazienti Covid. Questa volta non possiamo e non vogliamo lasciare indietro nessuno, perciò in questi giorni lavoriamo per trovare un equilibrio tra i due fronti, cercando di garantire tutto quello che è programmato, un piano di riconversione un po' al contrario rispetto a marzo. E questo è il racconto da un pezzo della Lombardia. Poi c'è il quadro generale. Il quadro generale cosa ci racconta, tra le altre cose? Il fatto che manca personale per tracciare i contagiati. Questo è un lavoro fondamentale, cioè il lavoro con il quale tu riesci a capire dove possono essere i focolai prima che si verifichino, prima che tu abbia l'insorgenza dei sintomi, e quindi persone che ricostruiscano i contatti di di altri, di individui che hanno contratto la malattia. Lo racconta Giuliano Foschini a pagina 8 della Repubblica. Manca personale, la caccia ai contagi alle armi spuntate, un tema, come sapete, sul quale eravamo già tornati e ritorniamo, perché è uno dei grandi elementi della mancanza di programmazione che c'è stata nel periodo nel quale la pandemia ci ha dato un attimo di tregua. È una questione che era stata già riportata nei giorni scorsi, lo ricordiamo, dal Sole 24 Ore in un pezzo, se non vado errato, di Marzio Bartoloni e Sara Monaci. Qua c'è Repubblica, ci torniamo volentieri noi in questa fascia della rassegna stampa perché ci sembra rilevante. C'è un articolo, il primo, che racconta molto del fallimento di questa seconda fase di contrasto al virus SARS-CoV-2, scrive Foschini. Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, si legge, le regioni sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. E qua si torna su questo, le misure di identificazione e gestione dei contatti, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti. Sono 9.241 gli addetti a tracciare i contatti dei positivi, erano 8.900 a giugno, la rete avrebbe dovuto essere potenziata del 30%, almeno del 30%, diciamo noi, perché probabilmente con i numeri di contagi che abbiamo oggi non sarebbe bastato nemmeno un 30% in più, e però è cresciuto di solamente 300 unità. Sono il 33%, ci fa sapere Foschini, i contagi di provenienza ignota, raddoppiati in una settimana. A maggio era stato indicato un rapporto per un monitoraggio efficace di un tracer ogni 10.000 abitanti, ma tre regioni sono ancora sotto: Friuli, Abruzzo e Calabria. Se volete un po' di cronaca diversa su Covid, c'è anche la storia dell'influencer del fitness, quello che sui social diceva che il virus non esiste. Si chiama Dmitry Stutsuk, ucraino, 33 anni, convinto negazionista del Covid, fisico scolpito, ci sono le foto di lui con i tatuaggi, faceva il preparatore atletico e l'influencer del fitness, è morto dopo aver contratto il virus in Turchia. Questo è molto seguito su Instagram e questo gli è successo. A chiudere cosa? Poi magari vedremo se avremo lo spazio per tornarci tra poco con Paolo Mieli. Di certo la vicenda del Vaticano si arricchisce ancora di ulteriori dettagli, migliori oggi ritrovate nel pezzo di Mario Gerevini e Fabrizio Massaro a pagina 23 del Corriere della Sera. Come sapete ho una certa passione per tutta questa vicenda. E racconta di un incontro segreto all'Hotel Bulgari di Milano tra broker e dirigenti del Vaticano. Tu lo sai che su questa operazione c'è tutto il mondo, sì? Ci sono i servizi vostri, i servizi inglesi, questa cosa va fatta come ti dico io e nessuno si fa male, perché non è che Gianluigi è caduto dal cielo e vi ha salvato l'operazione. L'operazione di cui parlano, rimasta segreta fino a ottobre 2019, è quella famosa dello scandalo del Palazzo di Londra, cuore dell'inchiesta penale della magistratura vaticana. E come sentite, ci inizia ad entrare anche la questione dei servizi segreti. Vedremo come andrà a finire, però gli spunti sono interessanti. GR24. Ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli, poi faremo un punto Covid con una membra del comitato tecnico scientifico e della persona che si occupa di rianimazione, proprio di terapie intensive, e poi dovremo avere ospite, se i trasporti aerei lo consentono, il viceministro dell'economia Misiani per parlare della manovra tra poco. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su aruba.it.